al tour con Ivan Basso. Buongiorno a tutti, eccoci all'appuntamento con il Tour de France. Oggi la tappa più bella, quella che si è chiusa sul Galibier dopo tre vette pazzesche. Ivan Basso ci ha provato, Andy Schleck è stato incoronato da queste montagne, ma adesso le sensazioni di Ivan. Cosa porti via da questa tappa, Ivan? Bisogna fare una premessa, dire che Andy Schleck oggi ha avuto coraggio, ha avuto una grandissima forma ed è riuscito sicuramente a fare un'impresa, quindi ha meritatamente vinto il corridore più forte, più coraggioso. Ivan, hai abbandonato a questo punto, ci sono le ultime montagne, ma i sogni di vittoria? Bisogna essere realisti, a due tappe dalla fine con un ritardo del genere non è possibile ipotizzare, voglio dire, una vittoria al Tour sarebbe proprio un contro ogni logica. Chiaro, domani c'è una tappa importante, una tappa con due salite che sono salite monumento, quindi tutto può ancora accadere, però così. Io devo dire che della mia prova di oggi sono soddisfatto, sono arrivato con i migliori e come ho detto devo fare i complimenti a Andy Schleck, ha fatto un'azione coraggiosa che poi si è coronata con la vittoria, quindi per noi è una giornata sicuramente positiva e domani si riparte. Grazie dunque a Ivan Basso che comunque, c'è da scommetterci, domani sull'Alpe d'Huez proverà a piantare la sua bandierina. Ed è tutto per questo diario di Ivan Basso dal Tour de France. Buona serata.